Questa mattina mi sono alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, stamattina mi sono alzata, il risaia mi tocca andare. E tra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mamma mia, oh che tormento, io mi sento da morire. Il capo in piedi, col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Verrà un giorno che tutte quante